ad alta voce. Elia Shilton legge Anton Chekhov. Il violino di Rothschild. La cittadina era piccola, peggio d'un villaggio, e non ci vivevano quasi altro che vecchi, i quali venivano a morire tanto di rado da far perfino stizza. All'ospedale e al penitenziario la richiesta di casse da morto era scarsissima. Se Yakov Ivanov avesse fatto il fabbricante di casse in un capoluogo di governatorato, allora con ogni probabilità avrebbe posseduto una casa di suo e si sarebbe sentito chiamare Yakov Matveich. Qui, invece, in questa cittaduzza lo chiamavano semplicemente Yakov, anzi, il popolino gli aveva appioppato chissà perché il nomignolo di bronzo e abitava poveramente, come un semplice contadino, in una piccola isba composta d'una sola stanza in cui dovevano trovar posto lui, Marfa, la stufa, il letto a due piazze, le casse da morto, il banco da falegname e tutta l'azienda domestica. Oltre il mestiere, un pochino di guadagno ritraeva anche dal suonar col violino. Nella cittadina, ai matrimoni, suonava per solito un'orchestra d'ebrei, di cui era direttore lo stagnino Moisei Ilich Shachkes, che prendeva per sé più della metà delle entrate. Siccome Yakov era assai bravo a suonar col violino, specialmente canzoni russe, lo Shachkes a volte lo invitava a far parte dell'orchestra col compenso di 50 copeche al giorno, senza contare le mance degli invitati. Quando Bronzo si installava nell'orchestra, per prima cosa gli trasudava e gli si imporporava il viso. L'atmosfera era torrida, pregna d'un puzzo d'aglio da stomacare. Il violino mandava i suoi acuti stridi, da mandritta ronfava all'orecchio il contrabbasso, da mancina piangeva il flauto, suonato da un rosso macilento giudeo, col viso che era tutto una rete di venuzze vermiglie e bluastre, di cognome Rothschild, come il noto miliardario. E codesto maledetto giudeo, anche le cose più allegre, si ingegnava a suonarle lamentosamente. A poco, senza nessun apparente motivo, Yakov si sentiva invadere da un odio, da un disprezzo per gli ebrei e particolarmente per Rothschild. Incominciava a punzecchiarlo, a rivolgergli male parole e un giorno aveva provato addirittura a picchiarlo, così che Rothschild, offeso, aveva esclamato guardandolo con occhi feroci: «Se non vi stimassi per vostro talento, da un pezzo vi avrei fatto volare dalla finestra». Poi era scoppiato in lacrime. Ed era questa la ragione per cui Bronzo veniva invitato di rado a suonare in orchestra soltanto nei casi d'estrema necessità, quando mancava qualcuno degli ebrei. Non era mai di buon umore Yakov, giacché di continuo si vedeva costretto a sopportare gravissime perdite. Per esempio, le domeniche e le feste comandate era peccato lavorare, il lunedì era giorno di malaugurio, e di questo passo, in capo all'anno, assommavano quasi quasi a un par di cento le giornate in cui, controvoglia, bisognava starsene seduti con le mani in mano. Eppure, che perdita di danaro non era questa? E se qualcuno in città celebrava le nozze senza musica, o se quello Shachkes non invitava Yakov, non era forse anche questa una buona perdita? I pensieri di tutte queste perdite assillavano Yakov specialmente di notte. Egli si poneva a fianco sul letto il suo violino e quando ogni sorta d'assurdità gli s'arrampicavano su per il cervello dava una toccatina alle corde. Il violino nell'oscurità mandava una nota e lui se ne sentiva alleviato. Il 6 di maggio dell'anno scorso Marfa d'improvviso s'era ammalata. La vecchia stentava a respirare, era sempre assetata d'acqua e barcollava un po'. Tuttavia la mattina era riuscita ad accendere da sé la stufa e perfino ad andare per l'acqua. Verso sera invece s'era messa a letto. Yakov aveva passato la giornata suonando il violino. Quando poi s'era fatto proprio buio, aveva preso un libretto in cui giornalmente annotava le sue perdite e per ammazzar la noia s'era messo a calcolarne l'ammontare entro l'anno. «Yakov», chiamò Marfa di sorpresa, «io muoio». Lui si voltò a guardare la moglie. Il viso della donna era roseo dalla febbre, insolitamente sereno e gioioso. Abituato a vederle il viso sempre pallido, timido e afflitto, Bronzo ora si sentì sconvolgere. Si sarebbe detto che davvero essa fosse sul punto di morire e fosse felice che finalmente se ne andasse per sempre da questa isba, da queste casse e da Yakov. Teneva gli occhi fissi al soffitto e biascicava con le labbra e aveva una espressione di felicità da sembrar che vedesse la morte sua liberatrice e ci bisbigliasse insieme. Ormai faceva giorno. Dalla finestra si scorgeva il fuoco dell'aurora. Guardando la sua vecchia, Yakov venne a ricordarsi, chissà come, che in tutta la vita egli non aveva avuto una volta un po' di tenerezza per lei, non le aveva mostrato un po' di pietà, non aveva mai avuto il pensiero di comperarle un fazzoletto da capo o di portarle da una festa di nozze qualche dolciume. Non aveva fatto che sgridarla, rimproverarla delle perdite di danaro, gettarlesi contro coi pugni alzati. E se è vero che non l'aveva mai battuta, l'aveva spaventata però, e ogni volta lei rimaneva impietrita dal terrore. Sì, lui le aveva proibito di prendere il tè dicendo che le spese erano già troppo forti e così si era ridotta a bere nient'altro che acqua bollente. E capiva ora perché lei avesse un viso così strano, così gioioso, e gliene veniva un senso di raccapriccio. Quando il mattino fu alto, si fece imprestare da un vicino il cavallo e condusse Marfa all'ospedale. Là dentro i malati erano pochi e quindi non gli toccò d'aspettare a lungo, non più di 3 ore. Con sua grandissima soddisfazione, oggi la visita ai malati non la passava il dottore, che era malato anche lui, ma l'assistente Maxim Nikolaich, un vecchio di cui tutti in città dicevano che era sì ubriacone e manesco, ma se ne intendeva più del dottore. «Riverito», disse Yakov introducendo la vecchia in sala da ricevere, «scuserete se sempre vi disturbiamo, Maxim Nikolaich, con le nostre faccenduole da nulla. Ecco, abbiate la bontà di guardare. Mi si è ammalato il micoso, la compagna della vita, come si suol dire. Voi scuserete l'espressione?» Aggrottando le sopracciglia brizzolate e allisciandosi i favoriti, l'assistente si fece a esaminare la vecchietta mentre quella rimaneva lì, seduta sullo sgabello, tutta raggobbita. Già, così è», lentamente sentenziò l'assistente e diede un sospiro. «Influenza, o forse anche febbri intestinali. Presentemente in città gira il tifo, che vuoi farci? La vecchietta ha campato il tempo suo, grazie a Dio. Che età ha? È ancora un anno e ne ha 70, Maxim Nikolaich. E allora, ha campato il tempo suo la vecchietta, bisogna pur sapersi accontentare. È certamente un'osservazione giustissima questa che voi vi siete degnato di fare, Maxim Nikolaich», esclamò Yakov sorridendo per cortesia, «e sentitamente noi vi ringraziamo della vostra affabilità. Ma permettete che io ve lo faccia presente. Da ogni piccolo insetto la vita è desiderata». «Troppo vorreste voi altri», disse l'assistente con un tono come se da lui dipendesse per la vecchia vivere o morire. «Beh, senti che fai, mio caro. Le applicherai alla testa delle compresse fredde e le darai, ecco, di queste pillole in ragione d'un paio al giorno. E con questo arrivederci e bonjour». Dall'espressione di quella faccia, Yakov comprese che la faccenda era grave e che ormai nessuna sorta di pillole avrebbe più giovato. Gli era chiaro adesso che Marfa sarebbe morta assai presto, se non oggi, domani. Quando arrivarono a casa, Marfa, entrando nell'isba, per 10 minuti rimase là, ritta, sostenendosi alla stufa. Le pareva che se si fosse messa giù, Yakov avrebbe incominciato a parlare delle sue perdite e a rinfacciarle con sgarbo che stava sempre coricata e che non aveva voglia di lavorare. E Yakov, intanto, l'andava guardando con uggia e rifletteva tra sé che domani era San Giovanni, dopodomani San Nicola Taumaturgo e poi veniva domenica e poi lunedì giorno di malaugurio. 4 giornate che non sarebbe stato permesso lavorare, mentre probabilmente Marfa sarebbe morta in una o nell'altra, sicché la cassa bisognava farla oggi. Allora, dato di piglio al suo metro di ferro, andò ad accostarsi alla vecchia e le prese la misura. Poi quella si coricò e lui, fattosi il segno della croce, si mise a fare la cassa. Quando il lavoro fu terminato, Bronzo inforcò gli occhiali e annotò nel suo libretto: per Marfa Ivanovna, cassa da morto, 2 rubli e 40 copeche. E trasse un sospiro. La vecchia continuò a star giù coricata in silenzio con gli occhi chiusi, ma la sera, quando imbrunì, d'improvviso chiamò a sé il suo vecchio. «Ti rammenti, Yakov?» gli domandò, fissandolo con uno sguardo raggiante. «Ti rammenti di 50 anni fa, quando il Signore ci diede quella figliolina con quei capellucci biondi? Io e te a quei tempi si stava sempre in riva al fiumicello e si cantavano tante canzoni sotto quel salcio». E con un amaro sorriso soggiunse: «Ci morì quella femminella». Yakov aguzzò la memoria, ma non c'era modo che si risovvenisse né della figliolina né del salcio. «Tu stai farneticando!» esclamò. Sopravvenne il prete e impartì i sacramenti, comunione ed estremunzione. Dopodiché Marfa incominciò a mormorare qualcosa di incomprensibile e a giorno nuovo spirò. Le vecchiette sue vicine pensarono a tutto: lavare, vestire e accomodarne la cassa. Yakov, per evitare l'inutile spesa del diacono, lesse lui stesso il salterio e fortunatamente per la tomba non gli presero nulla, dato che il custode del cimitero era suo compare. 4 contadini portarono al cimitero la cassa, ma senza compenso, così per deferenza. Seguivano la cassa le vecchiette, qualche mendicante, 2 idioti. I passanti devotamente si segnavano e Yakov era proprio soddisfatto che tutto fosse così a modo, decoroso e insieme a buon mercato, e che nessuno ne potesse restare offeso. Nel dare a Marfa l'ultimo addio, toccò con la mano la cassa e pensò: è un buon lavoro. Ma mentre tornava indietro dal cimitero, lo assalì un violento senso d'angoscia. Aveva un'impressione di malessere, il respiro gli usciva bruciante e faticoso, gli si erano infiacchite le gambe, aveva una gran sete. Ed ecco, per giunta, frullargli pel capo ogni sorta di idee. Si rendeva conto, di nuovo, che in tutta la vita non una volta aveva mostrato a Marfa un po' di pietà, un po' di tenerezza. I 52 anni che avevano vissuto nella stessa isba erano trascorsi lenti, ma chissà come era avvenuto che in tutto questo lasso di tempo neppure una volta egli avesse riflettuto a lei, le avesse posto mente, quasi che si trattasse d'una gatta o d'una cagna. Eppure ogni giorno lei accendeva la stufa, cucinava, andava per l'acqua, spaccava la legna, dormiva con lui nello stesso letto, e quando lui ritornava ubriaco dalle feste di nozze, ogni volta con gran rispetto attaccava il suo violino a parete e lo metteva a dormire, tutto senza dire una parola, con una timidezza, con una premurosità sul viso. Incontro a Yakov, sorridendo e facendo riverenze, si parò Rothschild. «Proprio di voi andavo in cerca, zietto», esclamò costui. «Vi manda tanti saluti Moisei Ilyich e vi prega di andar subito a casa sua». Jacob aveva altro nell'animo, aveva voglia di piangere. «Lasciami stare», disse e proseguì oltre. «Ma come si può fare così?» s'allarmò Rothschild, trotterellandogli dinanzi ai piedi. «Ma se Ilich resterà offeso, si era comandato subito!» Riuscì odioso a Jacob d'un tratto che questo giudeo si affannasse così e sbattesse le palpebre e perfino che avesse in faccia tutte quelle venuzze rossicce, e dava un senso di repulsione la sua verdognola redingot rattoppata di scuro, come pure tutta la fragile e delicata figura di lui. «Cos'hai da sfregarmiti tanto, testa d'aglio?» proruppe Jacob. «Bada di non accostarmiti!» L'ebreo si stizzì e proruppe a sua volta. «Voi però, per favore, andateci più piano, altrimenti ci penso io a farvi volare di là dallo steccato!» «Levamiti dinanzi agli occhi!» ruggì allora Jacob e gli si slanciò contro quei pugni stretti. «Non ti lasciano campare questi intrufoloni!» Rothschild, sbiancato come un cadavere dallo spavento, si rannicchiò su se stesso e s'annaspò con le mani sul capo come per difendersi dalle percosse. Poi balzò via e si gettò a correre a perdifiato. Così correndo dava dei saltelloni, batteva insieme le palme e si vedevano benissimo i sussulti della sua lunga ossuta schiena. I monelli di strada, tutti contenti dell'occasione, gli si slanciarono contro con gridi di «Il giudeo! Il giudeo! Il giudeo!» I cani a loro volta gli s'avventarono alle calcagna, abbaiando. Si sentì una sghignazzata, poi un fischio, e i cani si misero ad abbaiare più forte, più all'unisono. Poi si vede che uno dei cani diede un morso a Rothschild, giacché risonò disperato, doloroso, un grido. Jacob passeggiò un poco sul pascolo comunale, quindi si spinse al margine della città, all'avventura, e i monelli gli gridavano «Ah, ecco bronzo! Ecco bronzo, bronzo, bronzo, bronzo!» E d'improvviso fu al fiume. Qui, sibilando, giravano le zanzare e facevano qua qua le anatre. Il sole cuoceva forte e l'acqua mandava un tale bagliore da far male a guardarla. Jacob si inoltrò per un sentierino lungo la riva e poté vedere da un bagnatoio coperto uscir fuori una grassa, rubiconda signora che gli fece esclamar tra sé «Accidenti che lontra!». Poco lontano dal bagnatoio dei monelli adescavano con la carne i granchi. Appena lo videro, ruppero a gridare maligni «È bronzo, bronzo, bronzo, bronzo!» Ma ecco una larga, vecchia pianta di salcio con un'enorme caverna nel tronco e in cima nidi di corvi. E tutto a un tratto, alla memoria di Jacob, sorse come viva la figliolina dai capelli biondi e il salcio di cui parlava Marfa. Sì, questo appunto era quel salcio verzicante, placido, mesto. Com'era invecchiato, poveretto. Egli vi si sedette sotto e s'abbandonò ai ricordi. Sulla sponda opposta, là dove ora c'era quel prato acquativo, a quei tempi si drizzava tutto d'alto fusto un bosco di betulle, mentre laggiù su quell'altura calva che dominava l'orizzonte spiccava violaceo allora un vecchio decrepito folto di pini. Giù per il fiume era un continuo passar di barconi. Adesso invece tutto era livellato e liscio, e sulla sponda di là stava ritta una betullina sola sola, tenera ed eretta come una signorinetta, e sul fiume non c'era altro che anatre e oche. Non riusciva a spiegarsi in che modo fosse potuto accadere questo, che negli ultimi 40 o 50 anni della sua vita neppure una volta fosse più venuto qui al fiume, o se anche, chissà, c'era venuto, non ci avesse badato più che tanto. Eppure questo era un fiume secondo le regole, non mica un fiume da burla. Sarebbe stato possibilissimo metterci su delle pescaie e il pesce poi venderlo ai mercanti, agli impiegati, all'esercente del buffet della stazione e il danaro ricavato porlo in banca. Sarebbe stato possibilissimo percorrerlo con una barchetta da fattoria a fattoria suonando il violino e la gente di qualsiasi condizione avrebbe sborsato danaro sonante. Si sarebbe potuto provare a fabbricare di nuovo i barconi, sempre meglio che fare le casse da morto. O finalmente si sarebbe potuto impiantare un allevamento d'oro. Oche, macellarle ed inverno portarle a Mosca. Non dubitare che soltanto con la piuma in un anno si sarebbe guadagnato una decina di rubli. Ma lui aveva passato il tempo a sbadigliare e nulla di tutto questo aveva fatto. Che razza di perdite! Che razza di perdite! Che se poi avesse fatto tutto insieme, pescare, suonare il violino, fabbricare le barche e macellare le oche, allora mi sai tu dire che capitale non ne sarebbe risultato. Invece nulla di tutto questo, neppure in sogno. La vita era passata senza frutto, senza nessuna soddisfazione, sprecata stupidamente da non valer una presa di tabacco. Innanzi non rimaneva più nulla e se ti volti indietro, nulla fuorché le perdite, certe perdite così tremende da venirti i brividi. Ma dunque, come mai l'uomo non può vivere in modo che non ci siano tutte queste perdite e rimissioni? A che scopo, si chiede, avevano disboscato il betulletto e il folto di pini? Perché gli uomini fanno sempre appunto quello che non dovrebbero? Perché lui, Yakov, vita natural durante, aveva altercato, mugolato, minacciato coi pugni stretti, offeso la moglie e per qual mai ragione poc'anzi aveva spaventato e maltrattato quell'ebreo? Perché in genere gli uomini si tagliano le gambe l'un l'altro? Che perdite non ne derivano? Ah, che perdite tremende! Se l'odio e il malanimo non esistessero, gli uomini ritrarrebbero l'un dall'altro un giovamento incalcolabile. Quella sera e quella notte continuarono a ribalenargli dinanzi la figliolina, il salcio, l'oche macellate e Marfa, somigliante di profilo a un uccello che volesse bere, e il pallido, miserevole viso di Rothschild, mentre non so che ceffi lo incalzavano da tutte le parti e bofonchiavano delle perdite. Lui si rigirava ora su un fianco, ora sull'altro, e 5 volte si rizzò dal letto per suonare qualcosa sul violino. Al mattino, sulle forze, si levò e s'avviò all'ospedale. Quello stesso Maxim Nikolaich gli prescrisse d'applicare alla testa una compressa fredda, gli diede un po' di pillole e dall'espressione che aveva in viso e dal tono Yakov capì che la faccenda era grave e che ormai nessuna sorta di pillole avrebbe più giovato. Tornando più tardi verso casa fece la considerazione che dalla morte scaturisce una sola utilità: non c'è più bisogno né di mangiare, né di bere, né di pagare le tasse, né di far torto agli altri. E tenuto conto che l'uomo se ne giace nel sepolcro non già per un anno, ma per centinaia e migliaia d'anni, fatti bene tutti i calcoli, il guadagno ne risulta grandissimo. Con la vita l'uomo si trova in perdita, con la morte si trova in vantaggio. Morire non gli dispiaceva, ma non appena là in casa vide il violino, il cuore gli si strinse e gliene venne un senso di rammarico. Il violino non si può mica portar dietro nel sepolcro. E così ora sarebbe rimasto qua, abbandonato, e ne sarebbe avvenuto quel medesimo che era toccato al betulletto e al folto dei pini. Ogni cosa a questo mondo spariva senza traccia. E sempre sarebbe stato così. Yakov uscì dall'isba e si sedette sulla soglia, stringendosi al petto il violino. Col pensiero alla vita che passa via in pura perdita e dilegua senza traccia, incominciò a suonare, senza saper neppur lui che cosa. Ma gli venne fuori un che di accorato e di commovente, e le lacrime gli rotolavano giù per le guance. e quanto più intenso gli si faceva il pensiero, tanto più dolorosamente cantava il violino. Cigolò il saliscendi una volta, un'altra, e dal cancelletto apparve Rothschild. Una metà del cortile egli la percorse baldanzoso, ma alla vista di Jacob di colpo si fermò, si rattrappì tutto e, indubbiamente per la paura, si mise a far con le mani certi segni da sembrar che volesse indicar con le dita che ora era. «Vieni avanti, non temere!» esclamò affabilmente Jacob e gli fece cenno d'accostarsi. «Vieni avanti!» Voi però abbiate la bontà di non picchiarmi!» esclamò l'ebreo facendogli la riverenza. «Mi manda un'altra volta Moisei Ilich. Ecco, no, non temere, m'ha detto, va di nuovo da Jacob e ripetigli, dice, che se manca lui non si sa proprio come fare. Mercoledì ci sono le nozze. Già, il signor Sapovalov sposa la figliuola a una distintissima persona e così le nozze saranno ben ricche. Soggiunse l'ebreo e strizzò un occhio. Non è possibile, disse Jacob respirando a fatica. Mi sono ammalato, fratello. E di nuovo si mise a suonare e le lacrime gli sprizzavano dagli occhi sul violino. Rothschild lo ascoltava tutto orecchie, ritto di fianco a lui con le braccia incrociate al petto. La paura e la perplessità dipinte sul suo viso cedevano a poco a una espressione di dolore e di sofferenza. Stralunò gli occhi come se provasse un'estasi tormentosa e proruppe in un... E lentamente le lacrime gli scorrevano giù per le guance e andavano a sgocciolargli sulla redingote verdognola. Per tutta quella giornata Jacob rimase poi coricato, in preda alla malinconia. Quando alla sera il prete, confessandolo, gli domandò se non ricordasse a suo carico qualche peccato fuor dell'ordinario, lui, tendendo la memoria che gli si affievoliva, si risovvenne del viso di Marfa, così pieno di infelicità, e del disperato grido dell'ebreo quando era stato morso dal cane, e disse con voce appena percettibile: «Il violino datelo a Rothschild». «Sarà fatto», rispose il prete. «E adesso in città tutti domandano: o di dove è venuto a Rothschild un così buon violino? Da un pezzo ormai egli ha abbandonato il flauto e non suona più che col violino. Di sotto all'archetto gli sgorgan fuori certe note altrettanto flebili quanto quelle che emetteva dal flauto. Ma quando tenta di rifar quell'aria che suonava Jacob seduto là sulla soglia, allora gli vien fuori una cosa così pregna di mestizia e di afflizione che chi ascolta piange, e lui stesso alla fine straluna gli occhi e prorompe: e questa nuova canzone è tanto piaciuta in città che Rothschild viene di continuo invitato in casa da commercianti e da funzionari, i quali lo costringono a suonarla fino a 10 volte di fila. Elia Shilton ha letto Anton Chekhov, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it